Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione dedicata alla questione animale, quindi al complesso rapporto tra la specie umana e gli altri animali, ma anche una trasmissione che si occupa delle innumerevoli intersezioni tra la questione animale e tante questioni umane. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnini. Una società violenta come la nostra sembrerà bizzarro occuparsi di diritti degli animali. Eppure i progressi civili più importanti, come per esempio la fine della schiavitù, i diritti umani, l'Europa come superamento dei nazionalismi, sono sempre idee nate in tempi difficilissimi, tempi in cui questi progressi sembravano impossibili. Noi lasciamo volentieri ai realisti il compito di fiancheggiare lo status quo, sostenendo che non si può fare mai niente per cambiare le cose. Questa trasmissione invece apprezza chi si dedica al pensiero di un orizzonte diverso, migliore, e non con la postura dei sensitivi, bensì impegnandosi ogni giorno per creare il mondo giusto nel quale crediamo. E questo è il caso dell'associazione Animal Law, un'associazione che è nata a Bari e che abbiamo conosciuto il 6 novembre scorso al MIVEG, il festival vegan che si è svolto a Milano. Questa associazione si pone come obiettivo l'avanzamento della tutela legale degli animali attraverso lo strumento legislativo. La nostra corrispondente da Milano e cronista d'assalto, Roberta Marino, non si è lasciata sfuggire questa ghiotta occasione di intervista. Ecco il servizio. Another pill from a killer, turn a thriller to a tragedy. Yeah, darling, open a wall and walk it back. A job. Tra i recenti fatti di cronaca che hanno visto due cani, Angelo e Lilù, vittime di violenze inaudite riprese anche sui social, c'è chi chiede a gran voce un rafforzamento delle leggi a tutela dei diritti animali. Non si tratta, ahimè, di casi isolati, soprattutto se si va oltre il comparto degli animali d'affezione, come cani, gatti o simili. Il maltrattamento non solo è quotidiano, ma ampiamente legalizzato, nonché parte stessa della società dei consumi. Il termine diritti animali diventa allo stesso tempo rappresentazione di tutto e di niente, soprattutto quando si scontra con la realtà dei fatti. La legge considera gli animali ancora merce, cose, strumenti ad uso e consumo umano. Un tentativo di superamento di questo paradigma arriva dall'associazione Animal Love, che attraverso il contributo di avvocati, veterinari e studiosi intende promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza del diritto degli animali, interrogandosi anche sui possibili sviluppi dell'attuale normativa. Alessandro Ricciuti, avvocato e cofondatore dell'associazione Animal Law. Animal Law è nata dall'esigenza di portare avanti la ricerca nel campo del diritto degli animali, che è una disciplina interna alle scienze giuridiche interdisciplinare, per arrivare tendenzialmente al riconoscimento della dignità animale, della qualità degli animali come esseri senzienti, quindi il loro status morale. Arrivavamo all'esigenza di affiancare a quello che è il grande lavoro portato avanti dalle associazioni animalistiche interviste, anche un approccio squisitamente scientifico, professionale. Intendiamo allargare il campo anche ad altri studiosi di altre discipline, tenendo sempre presente che l'obiettivo principale è quello di migliorare la legislazione, quindi arrivare a formulare proposte per il miglioramento dello status degli animali nella società. La legge del Grimaldello anche per modificare quella che è la considerazione morale degli animali, capace di cambiare totalmente lo status degli animali. Un'altra cofondatrice di Animal Law, Annalisa Di Mauro, che è anche consulente etico e filosofico. Etica e diritto sono legati a filo doppio, nel senso che parte proprio da questa la necessità poi di adeguare le leggi a quello che appunto è la richiesta che proviene dalla gente. La legge poi permette di tutelare, di preservare degli spazi inviolabili che devono essere garantiti ai soggetti. Attualmente l'animale viene considerato nel nostro codice civile come una res, un bene mobile. Questo entra fortemente in conflitto con l'idea di essere senziente invece, che avanza, che è stata confermata a livello europeo. Diventa quindi indispensabile, e noi chiediamo di farlo attraverso questa petizione, riconoscere anche all'interno del nostro codice civile l'animale come essere senziente, riconoscere una dignità che contempla una serie di condizioni, ma è soprattutto legato alla qualità della vita. Un'altra cofondatrice di Animal Love, Claudia Taccani. Io, sarà che sono positiva nella vita, non vedo la normativa italiana così terribile, perché se ci guardiamo intorno, in realtà noi molto vicine, vedi la Spagna o vedi anche, per dire, la bella Croazia, la Slovenia, che comunque sono attaccate a noi, ragazzi miei sono veramente indietro. C'è da lavorare e soprattutto, se posso permettermi, secondo me c'è da mantenere quello che abbiamo raggiunto. Sono stati fatti dei tentativi di passi indietro, del tipo: il maltrattamento degli animali esiste ancora, però abbiamo dovuto lottare per mantenere in vita determinate tipologie di reati, perché abbiamo comunque rischiato. Ci sono diverse petizioni per migliorare la famosa legge prevenzione al randagismo degli anni 90, che è quella che ha abolito la possibilità di sopprimere cani e gatti randagi, cosa che prima si poteva fare. Questa è una conquista italiana a differenza di altri paesi. Attenzione, dobbiamo mantenerla e sicuramente migliorarla. Quindi insomma la vedo bene, ma dobbiamo stare con gli occhi aperti. Per informazioni sulle attività dell'associazione, consultare il sito www.animal-love.it. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Docente di giudaismo e di Antico Testamento, è recentemente scomparso ad Asti. Molti di voi lo avranno ascoltato nei suoi interventi alla trasmissione radiofonica della RAI Uomini e Profeti, con quella sua vocina quasi infantile, il suo garbo, la sua sensibilità. O magari qualcuno di voi avrà letto uno dei suoi libri. Di Dieci gatti voglio parlare del 2006, Teologia degli animali del 2007, che è anche il suo libro più famoso. Nel 2009 ha scritto Sento, rido, soffro e ti guardo, Animali, gli altri abitanti della terra, In paradiso ad attenderci, un altro libro del 2013, sempre del 2013, Animali e noi, un destino in comune.

quarta puntata di Cinema Animale, una rubrica di cinema che prova a capovolgere la relazione uomo-animale, a cambiare insomma punto di vista. Per l'appunto il punto di vista è quello della cinepresa, e immaginiamo che qualcuno si stia chiedendo perché abbiamo sentito il bisogno di una rubrica di cinema animale all'interno della nostra trasmissione. Beh, perché come diciamo spesso la questione animale permea tutti gli aspetti della nostra vita, non soltanto gli aspetti reali, ma soprattutto quelli dell'immaginario, l'immaginario che la società umana produce e che influenzano il nostro modo di pensare, di vivere e quindi anche i comportamenti. Quando si parla di immaginario si parla anche e soprattutto di cinema. Per questo abbiamo chiesto al nostro cinemologo di fiducia Emilio Maggio una rubrica speciale dedicata proprio al cinema. Quella di oggi è la quarta puntata. Troverete tutte le puntate precedenti nel nostro blog restiamoanimali.it. Quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande. Perché io sono io e perché non sei tu? In questi giorni viene distribuito nelle sale italiane il film di Marco Segato, documentarista prestato alla fiction, La pelle dell'orso, tratto dal romanzo omonimo di Matteo Righetto. Il film, ambientato negli anni 50 del secolo scorso in un piccolo paese delle Dolomiti, si avvale della partecipazione di Marco Paolini, attore noto per il suo teatro di impegno civile che, servendosi dell'arte del monologo, cerca stoicamente di far luce su eventi dimenticati ma quanto mai emblematici della storia del nostro paese. Il giusnaturalismo di Paolini, che trae giustificazione non dalle convenzioni del vivere in comune, bensì dai fondamenti stessi della ragione naturale che ne stabilisce i principi etici, trova parecchie corrispondenze nell'impianto narrativo del film, sostanzialmente un romanzo di formazione mascherato da favola allegorica, il cui fine sembrerebbe quello di catalizzare l'attenzione dello spettatore sui rischi e le conseguenze dei pregiudizi culturali e sociali di una piccola comunità di montagna. Fin qui sembrerebbe il solito panegirico pedagogico sui vizi e i limiti di nuclei sociali chiusi e autoreferenziali, e in cui l'ideologia identitaria, questione molto sentita oggi, gioca un ruolo affatto secondario. Ma qui è il ruolo giocato dall'orso, evocato nel titolo attraverso la sua pelle trofeo, a evidenziare come ancora una volta la categoria dell'animale selvaggio si presti alla funzionalità di risolutore di situazioni problematiche, come quella tra un figlio e un padre inaffettivo, tra un uomo considerato pericoloso per il suo passato compromettente e i membri della collettività da cui viene escluso e marginalizzato. Certificare il grado di autenticità del girato, il regista, che ricordiamolo è un documentarista, se questo può ancora voler dire qualcosa, ricorre a un orso in carne ed ossa, anzi due, come poi è emerso durante le presentazioni che il film ha avuto nei palinsesti televisivi e radiofonici italiani, l'uno la controfigura dell'altro a seconda delle necessità narrative. Si viene così a sapere, e Paolini come testimonial diretto del film e del lancio promozionale a svelarlo, che i due orsi usati sono vere e proprie star cinematografiche, in altre parole sono animali da set, soggetti cioè addestrati a lavorare per molti giorni e molte ore di fila dentro a complesse strutture di produzione cinematografiche e davanti a riflettori e macchine da presa. Senza entrare nel merito dell'argomento, non sono un esperto di addestramento di animali da spettacolo, voglio solo sottolineare come gli animali da set, dello stesso Paolini a confessarlo candidamente, siano sottoposti a tutta una serie di espedienti, come nel caso specifico il ricorso alla Coca-Cola per motivare uno dei due orsi e renderlo così più disponibile e docile. Quando i costi della digitalizzazione della realtà, che è la modalità imperante attraverso cui il cinema attuale promuove la sua visione di mondo, si fanno proibitivi, e quando la pochezza del film, come quello in questione, è più che evidente, il montaggio, come direbbe e diceva Bazin, diventa proibito, e l'orso, sinonimo di pericolo perché circoscritto nel campo dell'animale selvatico, l'animale demoniaco, vedi a questo proposito il caso recente di Daniz, va reso inoffensivo, includendolo nell'efficienza addomesticante del set. L'incolumità della comunità umana ha bisogno del sacrificio animale per ristabilire l'ordine compromesso dall'estraneità dell'orso. Nella pelle dell'orso è infatti l'adolescente Domenico a doversi farsi carico di preservare la continuità della tradizione uccidendo la bestia e prendendo in consegna il testimone della tradizione e del sangue, e diventando così finalmente uomo. C'è stanno pure i cotte che i ciliegini, ti ricordi? Astronzi! A tema cinematografico è anche la ricetta di questa settimana, a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Questa ricetta cinematografica la lascio presentare direttamente dall'autore che ha inserito in questa frase cult la torta a cui ha dedicato anche la sua casa di produzione. Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte? No. Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male. Gli ingredienti per una tortiera di 24 cm di diametro sono 200 ml di acqua, 200 g di farina tipo 00, 150 g di zucchero di canna, 50 g di olio di semi di girasole, una bustina di lievito per dolci, 30 g di cacao amaro in polvere, un pizzico di sale, 300 g di marmellata di albicocche e 200 g di ganache, per la cui preparazione gli ingredienti sono 100 g di panna di soia e 100 g di cioccolato fondente. Che lavoro fai? Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica. In una ciotola unite l'acqua, l'olio, lo zucchero e il pizzico di sale. A parte, in un altro recipiente, setacciate la farina assieme al lievito e al cacao amaro. In una sola volta unite la parte solida a quella liquida, mescolando con una frusta. Lavorate fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Versate il tutto in uno stampo di 24 cm di diametro, precedentemente spennellato di olio e spolverato con un velo di farina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti, coprendo con un foglio di carta forno la superficie della teglia per i primi 10 minuti. Beh, come campi? Ma te l'ho detto, giro, vedo gente. Lasciate raffreddare e nel frattempo preparate la ganache per la copertura. Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria, facendo attenzione a non far giungere l'acqua d'ebollizione, affinché gli oli essenziali del cioccolato non si disperdano. Quando il fondente si sarà totalmente fuso, togliete dal fuoco e aggiungete la panna, mescolando con la frusta delicatamente. Tagliate la torta a metà e farcite con la marmellata di albicocche, avendo cura di lasciarne un cucchiaio a parte, che farete sciogliere in un pentolino con un cucchiaio di acqua. Spennellate la superficie della torta con la marmellata, quindi versate la ganache coprendo bene tutta la torta. A piacere potete servirla accompagnata da un cucchiaio di panna vegetale montata. A nostra disposizione è esaurito. Vi ricordiamo gli ospiti e l'equipaggio che hanno reso possibile questa puntata: Roberta Marino, Alessandro Ricciuti, Claudia Taccani, Annalisa Di Mauro dell'associazione Animal Law, Luigi Lombardi Vallauri, Lorenzo Guadagnucci, Emilio Maggio, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi. L'appuntamento è come sempre tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stessa onda, stessa ora.